Da Blois Giuseppe ha scritto parecchie lettere a Giulia. Le hanno portate dei contadini che volentieri passano di contrabbando le linee alleate per vedere Parigi. Giulia dovrà restare da me con le figlie finché il nuovo governo e gli alleati abbiano preso una risoluzione sulla futura sorte della famiglia Bonaparte e sul risarcimento delle proprietà. Così scrive Giuseppe. Il 1 aprile Giulia mi ha chiesto del denaro per lo stipendio della governante delle sue bambine. Non ho un soldo con me. Giuseppe ha portato via in una cassa di ferro tutto ciò che possediamo in denaro e titoli di Stato, anche i miei gioielli, mi ha detto. Naturalmente Pierre ha pagato la governante. Anche mio nipote Mario mi ha chiesto un prestito. L'ho mandato da Pierre. La mattina dell'11 aprile Maria è comparsa presso il mio letto. Ha deposto sul comodino una tazza di surrogato di caffè dall'esecrabile sapore. Vi ha messo accanto un panino grigiastro e secco e mi ha detto: Pierre ti vuole parlare. Non ha più denaro. Pierre abita adesso nell'antico appartamento del portinaio al pian terreno. Lo trovai al suo scrittoio. La sua gamba di legno era in un angolo, appoggiata al muro, la porta di rado, la ferita al troncone del ginocchio ancora sempre infiammata. Sullo scrittoio c'era la cassetta del nostro denaro, aperta e vuota. Pierre mi porse un foglio sul quale stavano lunghe file di numeri. È il conto di tutti i pagamenti che ho fatto dal 1 aprile, tutte le paghe, acquisti per la casa, sono somme forti, non si trovano più viveri che al mercato nero. Il mese scorso ho ancora venduto all'ultimo momento i titoli di Stato di Vostra Altezza, abbiamo vissuto fin qui col ricavato di quella vendita. Oggi il cuoco potrebbe avere un arrosto di vitello sufficiente per tutti gli ospiti se io avessi 100 franchi o della valuta svizzera. Altezza, non abbiamo più un soldo. Spinse verso di me la cassetta. Sì, sì, ho visto, è vuota. Vostra Altezza può far conto in un tempo prossimo su una rimessa dalla Svezia. Mi strinsi nelle spalle. Forse Sua Altezza, il principe ereditario, potrebbe... Ma io non so dove si trovi, Sua Altezza. Naturalmente, posso procurarmi qualunque somma, purché Vostra Altezza voglia firmare la cambiale. Qualunque somma sarà messa oggi a disposizione della principessa ereditaria di Svezia. Volete firmare, Altezza? Mi presi la testa tra le mani, poi scossi il capo. Non posso prendere del denaro a prestito, tantomeno come principessa ereditaria di Svezia. Farebbe una pessima impressione, mio marito non approverebbe. No, non va proprio. Era entrata Maria. Potresti vendere o impegnare 2 o 3 piatti d'argento. E a Pierre, devi applicarti la gamba di legno, altrimenti non ti ci avvezzerai. Dunque, Eugenia? Sì, sarebbe una soluzione, ma... No, Maria, anche questo non va. Su tutti i piatti sta inciso qualcosa. GB, oppure lo stemma di Pontecorvo. Sul piatto grande della carne, per il quale si potrebbe al monte prendere davvero una sommetta, c'è addirittura la corona di principessa ereditaria. Tutta Parigi saprebbe subito che siamo senza quattrini. Ciò danneggerebbe enormemente il prestito e il prestigio della Svezia. Potrei impegnare qualche gioiello di Vostra Altezza e nessuno saprebbe di chi è, propose Pierre. E se io improvvisamente, come principessa di Svezia, dovessi ricevere uno dei miei augusti cugini, lo zar di Russia o l'imperatore d'Austria, dovrei presentarmi col collo nudo? Ho così pochi gioielli di valore. Giulia si è sempre messa addosso un mucchio di brillanti. Adesso potrebbe anche... Maria, Giuseppe ha portato via tutti i gioielli di Giulia. Sospirai. «E come potrai foraggiare tutta questa gente che hai in casa?» domandò Maria. Io fissavo la cassa vuota. «Lasciami riflettere! Lasciami riflettere!» Mi lasciarono riflettere. Nell'appartamento del portiere c'era un silenzio assoluto. «Maria, al tempo di papà la ditta Clary aveva a Parigi un deposito, non è vero? Si capisce, c'è ancora?» Tutte le volte che il signor Stefano viene a Parigi da Genova va a visitarlo, non te ne ha mai parlato? No, non ne abbiamo mai avuto l'occasione. Maria aggrottò le sopracciglia. Davvero? E chi ha ereditato la metà dell'azienda che spettava tua madre buonanima? Non lo so, Stefano non ha mai... Di questa metà aspetta un terzo per ciascuno a voi, alla regina Giulia e a vostro fratello Stefano, dichiarò Pierre. Ma a suo tempo noi abbiamo avuto la dote, tanto Giulia che io, obiettai. Sì, Questa era la porzione di eredità del tuo povero papà. Stefano ha ereditato allora una metà della ditta e la tua signora mamma l'altra metà. Maria faceva evidentemente dei conti. Ma dopo la morte della signora mamma, un sesto della ditta Clary è vostro, Altezza, disse Pierre. Ne devo parlare a Giulia, pensai. Ma Giulia se ne stava a letto tutto il giorno e si faceva mettere dai vet delle pezzette d'aceto sulla fronte che le doleva. E io non potevo capitare d'improvviso da lei e dirle che non avevo denaro per il pranzo. Maria, il cuoco prenda pure l'arrosto. Il macellaio avrà il denaro questa sera stessa. Procurami subito una carrozza di piazza. Il salotto grande pareva un manicomio. Mario e Villata stavano curvi su di una carta geografica e vincevano a parole tutte le battaglie che Napoleone ha perdute in questi ultimi mesi. Le figlie di Giulia si azzuffavano con i ragazzi di Ortensia per via del contenuto di una bomboniera di porcellana di Sèvres, delicata come un sospiro. Lala Flotte invece traduceva piangendo al conte Rosen un articolo di giornale nel quale Napoleone era chiamato mostro sanguinario. Io mi rivolsi a Mario. Dove si trova il deposito della ditta Clary? Stranamente arrossì. Tu sai che non mi occupo del commercio della seta. In vita mia non sono stato che ufficiale. In presenza di Villat, questo colloquio gli riusciva quanto mai penoso. Non mi diedi per vinta. Tuo padre è negoziante di sete e tu devi ricordare dove si trova il suo deposito. Tutte le volte che è venuto a Parigi è andato a visitarlo. Ma io non l'ho mai accompagnato. Io lo guardai, fisso, e si interruppe. È uno scantinato del Palais Royal, aggiunse in fretta. Poi mi diede l'indirizzo. La carrozza di piazza è arrivata, mi sussurrò Maria in un orecchio. La carrozza si fermò davanti a un vasto, elegantissimo negozio dello scantinato del Palais Royal, una piccola insegna a lettere d'oro aristocratiche. Francesco Clary, setteria all'ingrosso e al minuto. Feci aspettare la carrozza, scesi tre rampe di scale, aprii una porta, udii tintinnare una limpida campanella e mi trovai in un ufficio arredato con distinzione. Soltanto gli scaffali semivuoti alle pareti rivelavano lo scopo dell'elegante scrittoio di mogano e delle graziose seggiole e dei tavolini. Dietro lo scrittoio era seduto un uomo anziano, elegantemente vestito di scuro, con la coccarda bianca dei Borboni all'occhiello. In che cosa posso servirvi, madame? Siete il direttore della ditta Clary a Parigi? L'uomo si inchinò. Ai vostri comandi, madame. Il raso bianco purtroppo è tutto venduto, ma abbiamo una partita residua di mussola per tendaggi che Madame può adoperare per le sue cortine, molto richiesto nel Faubourg Saint-Germain. Non si tratta di questo, dissi con fermezza. Oh, capisco, Madame pensa ad un abito, diede un'occhiata agli scaffali. Ancora ieri avevo una partita di broccato con i gigli intessuti, Madame, ma purtroppo tutto venduto, tutto. Forse del velluto o in bianco fate dei buoni affari, monsieur. Le grande, madame, le grande, si presentò. Queste stoffe bianche, questo broccato col giglio borbonico in tessuto e la mussola per i tendaggi della restaurazione e tutta l'altra roba bianca, quando mai sono arrivati? Le strade d'accesso a Parigi sono sbarrate. Rise tanto di gusto che la doppia pappagorgia gli ballonzolava su e giù nell'alto colletto. Messie Clary ha mandato queste stoffe da Genova già alcuni mesi fa. Subito dopo la battaglia di Lipsia ne arrivarono le prime partite. Messie Clary, il capo della ditta, è politicamente informatissimo, madame, lo saprà. Messie Clary è. Si schiarì la gola sorridendo con aria soddisfatta. Messie Clary è il cognato del vincitore di Lipsia, il cognato del principe ereditario di Svezia. Madame capirà che. E voi avete venduto seta bianca una pezza dopo l'altra? Mentre le truppe francesi si battevano ancora per ricacciare gli alleati, ve ne stavate qui e incassavate denaro a palate. Non è vero, messieurs? Madame, io non sono che un dipendente della ditta Francesco Clary, cercò di difendersi offeso. E poi la maggior parte delle forniture non sono state pagate. Crediti, nient'altro che crediti. Le signore che hanno acquistato queste stoffe bianche coi gigli aspettano ancora la venuta dei Borboni. I loro mariti riavranno allora le loro alte cariche e le signore potranno pagare. Ma le toilette per il ricevimento alle Tuilerie devono essere confezionate in anticipo. Tacque un poco e mi osservò con diffidenza. In che cosa posso servirvi, madame? Mi occorre del denaro. Quanto avete in cassa? Madame? Io non capisco. Un sesto della ditta Clary mi appartiene. Sono una figlia del fondatore defunto e ho urgente bisogno di denaro. Quanto avete in cassa, Monsieur Legrand? Madame, non comprendo bene. Monsieur Stefano non ha che due sorelle, Madame Giuseppe Bonaparte e Sua Altezza Reale la principessa ereditaria di Svezia. Esatto, io sono la principessa ereditaria di Svezia. Quanto avete in cassa, Monsieur? Monsieur Legrand frugò con mano tremante nella tasca del panciotto, ne trasse un paio di occhiali, mi guardò, poi si inchinò profondamente quanto gli consentiva la sua pingue pancetta. Quando gli porsi la mano, incominciò ad ansimare. Sono stato apprendista dal vostro signor papà a Marsiglia, quando vostra altezza era ancora una bambina così cara e cattiva, altezza, tanto cattiva. Non mi avreste riconosciuto, non è vero? Neppure con gli occhiali. Mi venne da piangere. Non sono più cattiva, monsieur. Cerco di sbrigarmela perché in questi giorni. Chinai il capo per acchiappare con la lingua le lacrime. In due rapidi passi, Legrand si portò alla porta e la chiuse a chiave. Adesso non abbiamo bisogno di clienti, altezza, bisbigliò. Frugai nella mia Pompadour per trovare un fazzoletto. Legrand mi offerse il suo, candido, di finissima seta. Mi sono torturata il cervello per tirare avanti senza far debiti. Una Clary non può far debiti, non è vero? Aspetto soltanto che mio marito. Morsi disperatamente il fazzoletto del nostro antico apprendista. Tutta Parigi è in attesa del solenne ingresso del vincitore di Lipsia, mi assicurò Legrand. Lo zar è già arrivato e anche il re di Prussia. Non passerà molto tempo che. Mi asciugai le ultime lacrime. In tutti questi anni non ho mai prelevato la mia quota dei guadagni della ditta, perciò vorrei prendere adesso quel che avete di liquido. Ho ben poco liquido, Altezza. Il giorno prima della sua partenza, Re Giuseppe mi ha chiesto una grossa somma. I miei occhi si spalancarono per lo stupore. Egli non se ne accorse e continuò. Re Giuseppe ha sempre prelevato due volte l'anno la quota spettante a sua moglie sui nostri utili. Tutto ciò che abbiamo guadagnato fino agli ultimi di marzo nel commercio segreto delle stoffe di seta bianca è stato incassato da Re Giuseppe, non restano che i crediti, Altezza. Anche Giuseppe Bonaparte ha guadagnato sulle coccarde bianche. Consapevole o no, ormai fa lo stesso. Ecco, disse Legrand consegnandomi un fascio di banconote, è tutto il liquido che abbiamo in questo momento. È già qualche cosa, mormorai, ficcando le banconote nella Pompadour. Poi presi una decisione. Monsieur Legrand, dobbiamo incassare subito i crediti. Tutti dicono che il franco ribasserà ancora. Di fuori aspetta la mia vettura di piazza. Prendetela. Andate da un cliente all'altro e incassate. Se si rifiutano di pagare, chiediamo la restituzione della merce. Va bene? Ma io non posso muovermi da qui. L'apprendista. Non ce n'è rimasto che uno. I commessi sono stati chiamati tutti alle armi. L'apprendista l'ho mandato da una vecchia cliente che ha bisogno urgente di abiti nuovi, dalla marescialla Marmont, Altezza. E aspetto da un momento all'altro l'incaricato dei saloni Leroy. Dalle Leroy si lavora giorno e notte perché le signore della nuova corte. Beh, mentre voi incasserete, servirò io i clienti, dissi mentre mi levavo il mantello e il cappello. Legrand balbettò: Ma Altezza! Di che cosa vi meravigliate? Da ragazzino ho aiutato parecchie volte a Marsiglia in negozio, non abbiate timore. So come si arrotola la seta. Frettatevi, monsieur. Sbalordito, Legrand si avviò traballando alla porta. Monsieur, un momento. Si voltò. Vi prego, toglietevi la coccarda bianca quando fate delle visite per conto della ditta Clary. Altezza, quasi tutti la portano. Sì, ma non gli antichi apprendisti di mio padre. Arrivederci, monsieur. Quando fui sola, mi sedetti allo scrittoio e posai la testa sul piano del tavolo. Ero stanchissima. Erano tante notti che non avevo potuto dormire. I miei occhi ardevano ancora per le insulse lacrime che avevo improvvisamente versate. Colpa del ricordo di Marsiglia. Una bambina cattiva. Ero una bambina cattiva e proprio spensierata. E papà mi aveva presa per mano per spiegarmi i diritti dell'uomo. È passato tanto tempo e non tornerà mai più. La campanella sopra la porta d'ingresso tintinnò. Balzai in piedi, piena di zelo professionale. Una marsina azzurra dagli artistici ricami, una coccarda bianca, l'incaricato dei Salon Leroy. Da Leroy ho trattato sempre con la direttrice, l'incaricato non mi conosce. Siete l'incaricato agli acquisti della ditta Leroy, non è vero? Sostituisco Monsieur Legrand, in che cosa possiamo servirvi? Avrei desiderato che Monsieur Legrand personalmente, mi dichiarai dolentissima, poi tirai fuori dagli scaffali una pesante pezza di velluto. Vi era applicato un biglietto. Ordinazione di Madame Mère, restituita. Ne srotolai una parte per vedere il diritto della stoffa, verde scuro, il colore della Corsica, con api dorate intessute. Ecco, dissi, velluto verde con giglio dei Borboni. Mi ingegnavo intanto di rivoltare il più rapidamente possibile la pezza, così le api si presentavano capovolte. L'incaricato non mi aiutava, soltanto si teneva un occhialino davanti al naso ed esaminava il velluto. I gigli ricordano le api, trovò a ridire. Non è colpa mia, osservai piccata. Ricordano le api napoleoniche, insistette, e continuò in tono censorio. E poi il verde scuro è ormai passato di moda. È un colore che durante l'impero si è portato anche troppo, e per di più velluto, velluto in primavera, su, avete della mussolina color lilla pallido? Feci scorrere l'occhio sugli scaffali. Mussolina, mussolina rosa, gialla, violetta, deve essere all'ultimo ripiano. Ci sarà pure una scala qui, forse. Ah, ecco, là c'è la scala. L'appoggiai, mi arrampicai fin lassù, rovistai tra la mussolina violetta. L'imperatrice Giuseppina desidera un abito lilla pallido. Il lilla pallido richiama il lutto e l'imperatrice ha bisogno di questa toilette per ricevere lo zar. Oh, per poco non cascai giù dalla scala. Vuole ricevere lo zar? Certo, e spera molto da questa visita. Vuol parlargli delle sue rendite. Infatti si sta negoziando per le rendite dei Bonaparte. Sembra che si voglia essere larghi con questi parvenu e che si lascerà a loro un appannaggio. L'avete o no la mussolina lilla? Discesi la scala con la pezza e gli spiegai davanti il lievissimo tessuto. Troppo scuro, dichiarò. Lilla, colore di gran moda, ribattei. Mi lanciò uno sguardo sprezzante. Ma che cosa dite? Un colore che dona, leggermente melanconico, quello che ci vuole per Giuseppina. E poi noi ora vendiamo a pronti contanti. Impossibile in questo momento. Anche i nostri clienti non ci pagano. Subito, naturalmente, fino a che la situazione non si sia chiarita, mademoiselle. Oh! La situazione è chiarissima. Il franco ribassa. Noi non vendiamo che per contanti. Tolsi la pezza dallo scrittoio e la riportai negli scaffali. Dov'è Monsieur Legrand? Protestò. Non c'è, ve l'ho già detto. I suoi sguardi avidi sfioravano gli scaffali quasi vuoti. Non avete quasi più merce? Osservò. Feci un cenno di conferma. Sì, abbiamo quasi liquidato. È tutto per contanti. Come ammaliato, fissava alcune pezze di raso. La marescialla Ney, mormorò. Raso celeste? Madame Ney ha una fornitura di rubini e si veste volentieri di celeste, gli proposi. Mi guardò incuriosito. Siete ben informata, piccola mia. Conoscete bene il vostro ramo, mademoiselle? Désirée, dissi in tono amichevole. Ebbene, che cosa vogliamo mettere addosso alla marescialla Ney per quando sarà presentata ai Borboni alle Tuileries? Dite questo con una punta d'amarezza, mademoiselle Désirée. Non siete mica segretamente bonapartista. Prendete il raso celeste per la marescialla Ney. Lo avrete al prezzo d'anteguerra. Dalla pezza pendeva un cartellino con i caratteri minuti di Stefano. Vi era indicato il prezzo. Dissi la somma. Rilascerò una cambiale, insistette. No, voi pagherete a contanti o lascerete qui la merce. Abbiamo altri compratori. E mi contò il denaro sullo scrittoio. E la mussola violetta? Dissi mentre misuravo 8 metri di raso celeste e prendevo le forbici grandi sul piano della finestra. Poi arrischiai una piccola incisione e divisi il tessuto con un energico strappo, proprio come avevo veduto fare da papà e da Stefano quando avevano venduto un taglio di stoffa. Oh, l'imperatrice, neppure lei paga subito! Si lamentò, non gli diedi ascolto. Ah, 7 metri di mussolina, sospirò finalmente. Prendetene 9, si farà ricamare una sciarpa adatta all'abito, gli consigliai e misurai 9 metri. Lui intanto posava controvoglia il denaro per la toilette melanconica di Giuseppina. «E pregate le grand di riserbarci fino a questa sera il velluto verde con le api d'oro», mi raccomandò accomiatandosi. Glielo promisi di buona voglia. Dopo di lui servii tre altri clienti e mi arrampicai senza posa ora qua ora là su per la piccola scala. Finalmente ritornò Le Grand. Il negozio era poco meno che vuoto. «Avete incassato tutto, monsieur?» «Tutto no, ma una parte, ecco». Mi porse una cartella di cuoio con le molte banconote. «Registrate tutto esattamente, io vi rilascerò ricevuta della somma», dissi. Egli incominciò a scrivere. «Quanto potremo vivere con questa somma? Una settimana, 2 settimane?» Mi passò il foglio perché lo firmassi. Io riflettei e poi scrissi «Desirée, principessa ereditaria di Svezia, nata Clary». Le Grand vi sparse su della sabbia. «D'ora innanzi farò regolarmente i conti con mio fratello Stefano», dissi, «e procuratevi della mussolina violetta, il nuovo colore di moda, vedrete. E quel velluto verde che Madame Mère ha rimandato, riservatelo per le Roi. No, non scherzo affatto, le Roi lo vuole sul serio. Arrivederci, Monsieur Legrand». «Altezza!» La campanella della porta del negozio tintinnò. La carrozza di piazza aspettava. Pregai il cocchiere di condurmi nella Rue d'Anjou. «C'è già odore di primavera. Ma per le strade le facce della gente sono disgustate. Dopo una guerra nessuno più sa perché e a che scopo si debba soffrire la fame. Le donne fanno sempre la fila davanti alle botteghe dei fornai e portano delle coccarde bianche. Le edizioni straordinarie col testo dell'abdicazione nuotano nel rigagnolo della strada». Con uno scossone la carrozza si fermò. Una catena di gendarmi sbarrava l'entrata della Rue d'Anjou. Un gendarme gridò qualcosa al cocchiere. Il cocchiere scese di cassetta e aprì lo sportello. «È proibito il passaggio alle vetture. La Rue d'Anjou è sbarrata, si aspetta lo zar». «Ma io devo andare nella Rue d'Anjou, ci abito!» Il cocchiere lo spiegò al gendarme. «Possono passare coloro che provino di abitare nella Rue d'Anjou, ma a piedi», ci fu risposto. Scesi di carrozza e pagai il cocchiere. Ai due lati della via facevano spalliere i gendarmi. La carreggiata era deserta e i miei passi risuonavano. Quasi davanti alla mia casa fui fermata. Un brigadiere dei gendarmi a cavallo mi corse incontro. «È proibito andare oltre!» Lo guardai. La sua faccia non mi era nuova. Riconobbi in lui l'uomo che per più anni aveva montato la guardia davanti alla nostra casa per ordine del ministro della polizia. «Ah, lasciatemi passare, lo sapete che abito in quella casa». Accennai col mento a casa mia, davanti all'entrata i gendarmi formavano un fitto drappello. «Tra mezz'ora Sua Maestà, l'imperatore di Russia, farà visita a Sua Altezza Reale, la principessa ereditaria di Svezia. Ho l'ordine di non lasciar passare nessuno davanti alla casa», ringhiò e guardò da un'altra parte. «Anche questa ci voleva, lo zar che viene da me, lo zar». «E allora lasciatemi passare subito, devo pur cambiarmi!» urlai io, furente. Ma quel brigadiere, male in arnese, continuava a guardare altrove. Io pestai i piedi. «Guardatemi in faccia! Mi conoscete da molti anni, sapete benissimo che abito in quella casa. Ho sbagliato, vi ho scambiata per la marescialla Bernadotte!» Adesso mi guardava fisso. I suoi occhi balenarono, maligni. «Oh, vi prego di scusarmi, uno scambio. Vostra Altezza è la signora che deve ricevere lo zar», ruggì. «Passaggio libero per la principessa ereditaria di Svezia!» Passai, col cuore che batteva, tra i gendarmi. I miei piedi erano di piombo, ma passai. In casa ero attesa. Il portone si spalancò mentre mi avvicinavo. Maria mi afferrò per un braccio. «Presto, presto, tra mezz'ora avremo qui lo zar!» Pier ciondolava tra le sue grucce sulla soglia della portineria. Gli gettai la mia Pompadour. «Ecco, non siamo più nei pasticci, almeno per ora», gli gridai. Non so come arrivai al mio spogliatoio. Maria mi levò di furia gli abiti di dosso e mi buttò sulle spalle una vestaglia. Yvette prese a spazzolarmi i capelli. Io chiusi gli occhi, stremata. «Bevi questo, bevilo in un fiato». Maria teneva in mano un bicchiere di cognac. «Non posso, Maria, non bevo mai cognac». «Bevi!» Presi il bicchiere. Le mani mi tremavano, il cognac mi ripugnava, ma lo tracannai in un fiato. Mi bruciò tutta dentro, fino allo stomaco. Che cosa ti metti addosso? Domandò Maria. Non lo so, non ho niente di nuovo. Forse è forse l'abito di velluto viola che avevo all'udienza di congedo dall'imperatore. Velluto in primavera? Il violetto dona e fa melanconico. Mi strofinai il viso con l'acqua di rose, mi tersi la polvere del magazzino da tutti i pori della pelle, mi spalmai della crema dorata sulle palpebre. Yvette mi porgeva il vasetto per il trucco. Ecco, ed ora un po' di rosso sulle guance, il piumino della cipria. Hai ancora un quarto d'ora, Eugenia, disse Maria inginocchiandosi ai miei piedi e sfilandomi le scarpe e le calze. Riceverò l'imperatore nel salotto piccolo, in quello grande si è accampata tutta la famiglia. Intanto dei dolori di capo mi trafiggevano le tempie. Ho già preparato tutto nel salotto piccolo: champagne, confetti, non torturarti il cervello. Maria mi calzò dei sandali d'argento. In quel momento, nello specchio, vidi Giulia. Si era messa uno dei suoi paludamenti purpurei e teneva in mano una delle sue piccole corone. «Devo o non devo mettere la corona, Desirée?» Mi voltai e la guardai senza comprendere. Era così magra che la porpora, che le stava già tanto male, le piangeva addosso in tristi pieghe. «Ma in nome del cielo!» Perché vorresti metterti la corona? Beh, pensavo, voglio dire, che se tu mi presenterai allo zar, dirai anche il mio antico titolo e... Mi voltai e parlai nello specchio. Vuoi proprio essere presentata allo zar, Giulia? Ella assentì con fervore. Naturalmente, lo pregherò di tutelare i miei interessi e le mie figlie. L'imperatore di Russia... Ma non ti vergogni, Giulia Clary? Sussurrai. Napoleone ha abdicato appena da 2 ore. La sua famiglia ha condiviso la sua buona fortuna. Hai accettato da lui 2 corone. Ora dovrai aspettare quel che sarà stabilito a tuo riguardo. I tuoi interessi. Ah! Trangugiai. La mia bocca era arida. Giulia, tu non sei più una regina, sei soltanto Giulia Bonaparte, nata Clary. Niente di più, ma anche niente di meno. Qualcosa tintinnò. La coroncina le era caduta di mano. Poi uscì sbattendo l'uscio. Io stringevo gli occhi per il gran mal di capo. Yvette mi appese alle orecchie i pendenti della regina madre di Svezia. Per tutto il giorno mi hanno domandato dov'eri, disse Maria mentre mi aiutava ad alzarmi. E tu che cosa hai risposto? Non ho risposto niente, sei stata fuori tanto. Ho mandato in giro il procuratore della ditta a incassare dei crediti e intanto ho dovuto servire i clienti. Via la vestaglia, mi infilo nell'abito viola, mi seggo. Ancora 5 minuti, disse Maria. Ivetti incominciò a legarmi i capelli con un nastro rosa. Maria domandò: Come va il negozio? Ah, gonfie vele. Raso di Mussolina per le nuove toilette di corte delle vecchie marescialle. Dammi ancora del cognac, Maria. Senza far parola, riempì il bicchiere. Senza far parola, io trangugiai. Bruciava, ma faceva piacere. Guardai nello specchio. I miei occhi apparivano grandi, fuori del naturale, sotto le palpebre dorate. Forse che dovevo passarmi un po' di cipria sulle ombre azzurre di sotto. Quando indossai quest'abito l'ultima volta mi ero appuntata delle violette. Peccato, quest'oggi non ne ho. Ma hanno portato dei fiori per te, Eugenia, delle viole. Sono sul camino del salotto piccolo. Ora devi scendere. Il salottino era in perfetto ordine. Sul tavolo, davanti allo specchio, champagne, bicchieri, confetti. Sul camino un paniere d'argento con delle violette. Erano piccole, sparute e appassite, e una busta suggellata. Ecco, squilli di trombe, scalpitare di cavalli. Lo zar, naturalmente, si fa accompagnare da una guardia del corpo. Una carrozza si fermò. Io stavo in mezzo al salotto, diritta, irrigidita. La porta si spalancò. Un uniforme candida dalle spalline dorate, sfavillanti, un gigante dal tondo viso di fanciullo, con i capelli biondi e un chiaro sorriso, e dopo di lui, subito dopo di lui, Talleyrand. Dietro ai due un brulichio di uniformi straniere. Mi inchinai e porsi la mano al gigante biondo per il bacio. Altezza, è per me un dovere, sentito con tutto il cuore, rendere omaggio alla sposa dell'uomo che tanto ha contribuito alla liberazione d'Europa. Disse lo zar. I miei domestici andavano intorno senza far rumore, porgendo calici di champagne. Lo zar si sedette accanto a me sul piccolo soffà, nella poltrona di fronte la marsina ricamata del signor di Talleyrand. Il principe di Benevento ha avuto la bontà di mettere a mia disposizione la sua casa, sorrise lo zar. Porta sempre questa candida uniforme anche in battaglia? Oh, che assurdità! Lo zar non è un condottiero, è un gran signore che al suo quartier generale aspetta, stando a cavallo, annunci di vittorie. Solo Gian Battista è insieme principe e condottiero. Per questo a Lipsia hanno affidato a lui il sanguinoso compito. Per questo a Lipsia gli hanno spezzato il cuore. Io bevevo champagne e sorridevo. Sono assai spiacente che lo sposo di Vostra Altezza non sia entrato a Parigi al mio fianco. Gli occhi azzurri si fecero ad un tratto piccoli. Avevo fatto conto su questo. Mentre le nostre truppe attraversavano il Reno, ci siamo scambiate un'infinità di lettere, una piccola divergenza di opinioni a riguardo dei confini futuri della Francia. Io sorridevo e bevevo champagne. Avrei desiderato molto che Sua Altezza partecipasse alle conferenze circa la nuova Costituzione dello Stato francese. In effetti, Sua Altezza, per quanto riguarda le aspirazioni del popolo francese, è informato meglio di me, o del nostro caro cugino, l'imperatore d'Austria, o del re di Prussia. Inoltre, presso i singoli sovrani e i loro consiglieri si vengono delineando diversi, diciamo così, diversi interessi. Vuotò in un fiato il suo bicchiere e lo porse distrattamente ad un aiutante. L'aiutante lo riempì di nuovo. Nessuno dei miei domestici gli si poteva avvicinare. Io continuavo a sorridere. Attendo con impazienza l'arrivo di vostro marito, Altezza. Sa forse vostra Altezza per quando potrò attenderlo? Scossi il capo e bevi champagne. Il governo provvisorio di Francia, sotto la presidenza del nostro amico il principe di Benevento, levò il calice verso Talleyrand. Talleyrand si inchinò. Questo governo provvisorio ci informa che la Francia desidera ardentemente il ritorno dei Borboni e che soltanto la restaurazione potrà garantire la pace interna. Personalmente sono sorpreso di questo modo di sentire. Che cosa ne pensa, Vostra Altezza? Non mi intendo di politica, sire. Dalle mie frequenti conversazioni col marito di Vostra Altezza avevo tratto l'impressione che la dinastia borbonica fosse, ecco, non fosse proprio desiderata dal popolo francese. Perciò ho proposto a Sua Altezza, porse il calice vuoto all'aiutante e mi guardò intanto diritto in faccia, di suggerire al popolo di Francia l'elezione a re del suo grande generale Bernadotte. E che cosa ha risposto mio marito a Vostra Maestà? Incomprensibilmente nulla, Altezza. Il nostro caro cugino, il principe ereditario di Svezia, non ha risposto alla nostra lettera su questo argomento. Sua Altezza non è giunto a Parigi al tempo stabilito. I miei corrieri più non lo raggiungono. Sua Altezza è scomparso. Beve il bicchiere appena riempito e mi guardò accorato. L'imperatore d'Austria e il re di Prussia caldeggiano il ritorno dei Borboni. L'Inghilterra ha già approntato una nave per l'imbarco di Luigi XVIII. Poiché il principe ereditario non risponde, mi conformerò ai desideri del governo francese. Il suo sguardo sfiorò Talleyrand. E dei miei alleati? Guardò pensieroso nel bicchiere e poi, di punto in bianco, avete un bellissimo salotto, madame. Ci alzammo. E lo zar si accostò alla finestra e guardò nel giardino. Io gli stavo vicina e gli arrivavo appena alla spalla. Un bel giardino, mormorò distratto. Mio Dio, il mio giardino quest'anno è assai trascurato e ha un aspetto desolante. Questa era una volta la casa di Moreau. Lo zar chiuse gli occhi, assalito da un doloroso ricordo. Una cannonata gli ha sfracellato le gambe. Moreau faceva parte del mio stato maggiore. È morto ai primi di settembre, Vostra Altezza ne è stata informata? Premetti la fronte contro i freddi vetri della finestra. Moreau era un nostro vecchio amico, dal tempo in cui mio marito sperava ancora di conservare la Repubblica al popolo francese. Parlavo a voce molto bassa. Eravamo soli, appoggiati alla finestra, lo zar di tutte le Russie e io. Neppure Talleyrand poteva udirci. E per questa Repubblica vostro marito non accoglie la mia proposta, madame? Io tacqui. Nessuna risposta è anche una risposta, sorrise lui. A un tratto mi venne in mente qualcosa e mi arrabbiai. Sire, Sire, a mio marito voi non avete offerto soltanto la corona di Francia, ma anche la mano di una granduchessa. Dicono che le pareti hanno orecchi, ma che li abbiano anche le massicce mura del castello di Abo, rise. Sapete che cosa mi ha risposto vostro marito, Altezza? Io non risposi, non ero neanche più arrabbiata, ero soltanto stanchissima. Ma io sono già sposato, mi ha risposto il principe ereditario. E da allora questo argomento non fu più toccato. Siete tranquilla ora, Altezza? Non sono mai stata inquieta, sire, almeno non su questo punto. Bevete ancora un bicchiere, caro cugino? Talleyrand ricomparve. Talleyrand gli porse i bicchieri. Talleyrand non ci lasciò più soli un attimo. Se in questi giorni potessi fare qualche cosa per voi, cara cugina, ne sarei veramente felice, disse lo zar con fervore. Ah, siete molto cortese, sire, ma non mi occorre nulla. Forse una scorta d'onore di ufficiali della Guardia Russa? Oh, per l'amor di Dio, questo no! Mi sfuggì detto. Talleyrand sorrise, ironico. Capisco, disse lo zar, serio. Naturalmente, capisco, cara cugina. Si curvò sulla mia mano. Se avessi avuto prima l'onore di conoscervi, non avrei fatto al principe ereditario quella proposta, Altezza. Voglio dire, la proposta di Abò. Ma le vostre intenzioni erano buone, sire. Cercai di consolarlo. Le donne della mia famiglia di cui si trattava sono purtroppo ben poco avvenenti. Invece voi, carissima cugina. Le ultime parole si dispersero tra il sonar degli speroni.